Possiamo iniziare? Mi presento, sono Paolo Ramazzotti, uno degli autori di questo libro, che parte da, se vogliamo, da una premessa di valore importante, che è quella di adoperarsi per, e qui inizio a citare Federico Caffè, un mondo in cui il progresso sociale e civile non rappresenti un sottoprodotto dello sviluppo economico, ma un obiettivo coscientemente perseguito. Si tratta di una scelta di valore che è anche una scelta culturale e di teoria economica, perché di fatto consiste nel ritenere che sia possibile scindere progresso sociale e civile da sviluppo economico e che sia possibile anteporre progresso sociale e civile allo sviluppo economico. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire porsi in un'ottica di prescindere da situazioni economiche? Non necessariamente. Esistono chiaramente dei vincoli di carattere storico, politico, di interessi costituiti, anche di carattere tecnico-economico che non permettono di realizzare un progresso sociale e civile da un giorno all'altro, ma proprio queste stesse circostanze che ho elencato rappresentano denotano una complessità del mondo in cui viviamo, una sua non linearità che suggerisce che oltre a costituire dei vincoli aprono delle opportunità. Il problema a questo punto è come collocarsi, quali opportunità, quali scelte, in ultima istanza quali valori. Per dirla in una battuta, i valori ai quali si sono ispirati gli autori sono quelli che vediamo sanciti dai diritti elencati nella Costituzione e la democrazia. Come si colloca questo quadro di riferimento valoriale nel contesto economico attuale? Parliamo, sui giornali leggiamo abitualmente il termine neoliberismo. Allora vale un momento la pena ricordare che la tradizione liberista, una tradizione che è antica, ha al suo centro la naturalità del mercato. Il mercato e il modo di coordinare l'attività economica. A distanza di 40 anni dall'auspicio di Caffè e in presenza di questa egemonia liberista, mi viene in mente un cartello che è stato portato alla manifestazione contro Trump di qualche giorno fa, nel quale una signora anziana teneva la scritta, ve la dico prima in inglese: I can't believe I'm still protesting this shit. In italiano: non posso crederci che ancora sto protestando contro questa merda. In realtà le cose non stanno propriamente così, nel senso che non stiamo parlando di un liberismo ottocentesco. Il neoliberismo è qualcosa di cambiato nel tempo rispetto alla tradizione liberista, è un progetto politico che consiste nel creare, quindi non nell'assumere la naturalità, ma nel creare una configurazione istituzionale che affidi il coordinamento dell'economia solo ai prezzi, a partire dallo status quo, quindi a partire dalle diversità di potere, dalle asimmetrie di potere economico e politico, con implicazioni quindi di nessuna stabilizzazione di reddito e di occupazione, uno stato sociale ridotto ai minimi termini per gli inabili o per ragioni fisiche, psichiche, oppure quelli che momentaneamente possono avere una difficoltà. E poi quello che due autori del libro, Perry e Lampa, chiamano lo spontaneismo rispetto alla politica industriale, cioè l'assenza di una politica industriale. Bene, qualcuno si chiederà: non hai detto la parola più comune quando si parla di neoliberismo, e cioè deregolamentazione. Ecco, deregolamentazione è un termine di matrice liberale, esprime fino in fondo quanto siamo vittime dell'egemonia culturale del liberalismo. Perché deregolamentazione implica che ci sia una regolamentazione che uno rimuove rispetto ad un mercato naturale. Altrimenti occorrerebbe valutare che in realtà non può esistere alcun tipo di coordinamento dell'economia, sia esso basato sui prezzi, sia basato su qualunque altra cosa, che non implichi sottostante un ordinamento giuridico. Quindi una serie di istituzioni che implicano delle scelte politiche, delle scelte di qualche tipo etico in senso lato. Quali implicazioni ha questo neoliberismo? Beh, come ci sottolinea Cangiani, quello di sostituire la pianificazione pubblica alla pianificazione privata, perché non esiste quel mercato dove non esistono soggetti in grado di influire sulla realtà, esistono imprese che decidono come operare i loro affari, come indirizzare l'economia, e quindi esiste una pianificazione privata. Ma al di là della pianificazione privata esiste, e questo è un punto sollevato, sottolineato da Gnesutta e da Salento nel libro, quella che viene chiamata la patrimonializzazione dell'economia, vale a dire il passaggio da una logica di profitto incentrato sull'attività manifatturiera, quindi sulla produzione di merci, a quello che è il valore patrimoniale e finanziario di un'impresa. In altri termini, anziché soffermarsi sul saggio di profitto, ci si sofferma sull'aumento di valore dell'azienda sotto forma di, tipicamente, del valore delle azioni. La differenza è che l'aumento del valore patrimoniale di un'azienda può essere del tutto disgiunto da una qualsivoglia attività di produzione di merci e quindi disgiunto da una qualunque attività di creazione di reddito. Questo punto viene messo in evidenza, dicevo appunto, da questi autori. Gnesutta richiama De Cecco, che parlava del passaggio da un'economia del debitore a un'economia del creditore. Il debitore era tipicamente l'impresa che si indebitava per svolgere la sua attività. Il creditore sono le banche, il sistema finanziario, che in questo momento danno il là dell'attività economica. E un terzo punto è il passaggio da una prospettiva nelle strategie di impresa, da una prospettiva di lungo periodo, non una di breve periodo. L'enfasi sul breve periodo che ha portato a questo neologismo orrendo, il breve periodismo, che troviamo in autori come Gallino, per esempio, è quella per cui, dovendo rendere conto tipicamente agli azionisti, che non sono il piccolo risparmiatore, ma sono le istituzioni finanziarie che detengono i pacchetti azionari importanti, dovendo rendere conto dell'attività dell'impresa anno dopo anno, se non addirittura quadrimestre per quadrimestre o trimestre per trimestre, occorre procedere speditamente, quindi si tratta molto spesso di ridurre i costi bruscamente. Ridurre i costi vuol dire tagliare i rami secchi, come si suol dire a livello giornalistico, e cioè eliminare tutte le attività non cruciali per l'azienda, creando disoccupazione. Quali sono le conseguenze di questa situazione? Beh, tipicamente una domanda stagnante, perché pochi investimenti, di sicuro poco investimento nella ricerca e lo sviluppo, perché quella richiede tempi lunghi, riduzione del costo del lavoro, licenziamenti, precarizzazione, che vuol dire riduzione della spesa proveniente dai consumi dei lavoratori, instabilità finanziaria, redistribuzione del reddito e della ricchezza, degrado e fragilità della struttura industriale, perché un sistema non coordinato, un sistema che pone l'enfasi sul breve periodo, è un sistema che non investe, non privilegia la competitività di costo sulla competitività di qualità, e come osservano Camozzo e Gambarotto, questo favorisce anche processi di polarizzazione urbana, polarizzazione fra i centri urbani se non gestiti. A queste conseguenze economiche se ne aggiungono di sociali e di politiche. Quelle sociali sono la disoccupazione, la precarizzazione del lavoro, del reddito, la riduzione della mobilità sociale. Questi sono aspetti immediati. Più in generale, potremmo dire più a livello culturale, si assiste a una mercificazione crescente della forza lavoro. Cosa intendo con questo? Beh, in un sistema capitalistico tipicamente la forza lavoro è una merce, però un sistema capitalistico nel quale esista un sistema di diritti a tutela dei lavoratori e un regime di stato sociale che garantisca come dire, uno zoccolo duro di benessere per tutti è un sistema nel quale la mercificazione della forza lavoro viene contenuta. L'eliminazione dello stato sociale e la precarizzazione delle condizioni di lavoro evidentemente accentua questa mercificazione della forza lavoro. E non è solo questo, c'è una trasformazione di tutti gli individui in agenti di mercato, perché in ultima analisi con la filosofia neoliberista i servizi dello Stato sociale devono essere trattati come delle merci, per cui se io sono disoccupato posso ottenere un sussidio fin tanto che io sono disposto ad accettare qualsiasi impiego mi venga offerto. Se io devo avere delle prestazioni dello Stato sociale devo essere disponibile a pagare in qualche misura per i servizi che mi vengano offerti. C'è un progressivo passaggio da quelli che sono dei diritti fondamentali a una struttura mercantile per quelli che sarebbero appunto questi diritti fondamentali. Sul piano politico che cosa accade? Sul piano politico si verifica quello che viene particolarmente sottolineato da Schiattarella al mio fianco, che è lo strabismo della politica. Lo strabismo della politica consiste in questo, che i governi sono da un lato formati indirettamente da elettori ai quali devono fare delle promesse, dall'altro però devono rispettare una serie di requisiti che vengono imposti non dalla cittadinanza ma da organismi internazionali, da una serie di soggetti che vengono chiamati eufemisticamente i mercati e che corrispondono a operatori non generici ma operatori finanziari di notevole peso. Questo strabismo della politica, per cui da un lato bisogna rendere conto alla cittadinanza, dall'altra bisogna rendere conto a questi potentati, porta di fatto a una sconnessione democratica, al fatto che si perda la fiducia da parte della cittadinanza nei confronti dei governi che non sono in grado di corrispondere alle istanze della collettività. E questo è uno dei problemi di fondo che tentiamo di sviluppare nei vari saggi del libro. Viene articolato in modo particolare da Schiattarella perché lui si sofferma su come i valori siano andati cambiando nel tempo e come questo incida sul sistema democratico. Ci troviamo quindi in presenza di un'egemonia neoliberista che è ideologica, nel senso che i problemi economici sono visti come tecnici, l'obiettivo è l'efficienza e prescindono del tutto da scelte valoriali. È istituzionale, nel senso che si tratta di promuovere l'efficienza indipendentemente dal benessere sociale. È un'egemonia a livello sociale, nel senso che favorisce l'individualismo smantellando gli strumenti di solidarietà sociale. È un'egemonia politica perché passa progressivamente da quel termine vago e neutro, apparentemente neutro, che, e che infatti non viene tradotto per salvaguardarne la neutralità, che è governance, e che in ultima analisi vorrebbe dire la gestione tecnica di una realtà, ecco, dalla governance alla governabilità, e cioè alla necessità di rispettare dei vincoli di governabilità, che poi in ultima analisi sono quelli imposti dai mercati e dalle istituzioni internazionali. E in realtà, verrebbe da aggiungere, si passa non solo dalla governance alla governabilità, ma anche dalla governabilità a quella che Foucault chiama la governamentalità. Di fronte a questa situazione esistono delle visioni alternative? Ce ne sono in grande abbondanza a volerlo. Una visione è quella di passare da una logica di profittabilità a quella delle finalità collettive, e questo è l'insegnamento di autori come Veblen, come Galbraith. Quella di passare dalla subordinazione della società all'economia alla subordinazione dell'economia alla società, questo è un insegnamento di Karl Polanyi. Quello di passare dall'enfasi sul reddito all'enfasi sulle opportunità di scegliere come vivere e come condurre la propria esistenza, e questo è l'insegnamento di Amartya Sen. E c'è l'opzione di passare dalla situazione di disoccupazione a quello dello Stato occupatore di ultima istanza, che ha fra i suoi sostenitori proprio Federico Caffè. Rispetto a queste visioni alternative, è facile dire tu che proposta concreta vuoi fare. Ecco, io credo che dobbiamo chiarirci alcune cose. La prima è che le scelte economiche possibili vanno fatte per giudicare la politica e non per esserle subalterne. E quindi quando mi si dice ma il contesto politico non lo permette, io credo che veniamo meno al nostro compito di economisti. Noi dobbiamo segnalare quello che è possibile e su quello giudicare chi svolge il compito di governare l'economia. E il problema è che a complicare la situazione, le scelte non possono essere solo economiche, solo istituzionali o solo culturali. Implicano una ridefinizione dei valori, cioè chiedersi se non si debba favorire i bisogni delle persone, privilegiare degli obiettivi che non siano la crescita ma il benessere, puntare su delle istituzioni che non siano prezzocentriche ma che puntino ad un coordinamento dell'economia che privilegi alcuni diritti fondamentali. Implicano una cultura diversa, che è quella della solidarietà anziché dell'individualismo, e implicano una enfasi su soggetti che non sono solo quelli governativi ma anche i soggetti intermedi. Io su questo concludo, non prima di aver ricordato che stiamo parlando di un libro che è una merce, e quindi vi ringrazio per l'attenzione ma anche per l'acquisto del libro. Abbiamo avuto una defiance da parte dei due delle due persone che dovevano intervenire, e quindi giochiamo in casa. E giochiamo in casa, ma io non ero preparato, come si dice. No, cioè, provo a raccontarvi un po' da un punto di vista più generale il tentativo del mio lavoro. Io non conosco tutti gli articoli, anche se il curatore ci ha chiesto di leggerli tutti, e io disciplinatamente l'ho fatto. Però diciamo, posso cercare di raccontarvi e anche un po' discutere insieme, se possibile, il tentativo che c'era dietro questo, la mia parte di lavoro era quello di capire cosa stava succedendo al rapporto fra istituzioni economiche e istituzioni non economiche, che è poi un po' il cuore del problema, a mio giudizio. Quando lui mi ha proposto di far parte di questo tentativo, ho detto sì, mi va, perché voglio approfondire una questione che presto o tardi dovrò approfondire. Infatti così è stato. Ora provo a raccontarvi il percorso che sta dietro il lavoro, e poi magari entro pure in qualche approfondimento delle cose che peraltro, le quali peraltro ha già accennato Paolo. Allora, l'idea è un po' questa. La prima cosa su cui volevo riflettere è che quando si parla della situazione attuale, il nucleo è sempre i valori, sono sempre valori. Noi dobbiamo parlare di valori, perché tutto quello che succede, tutta la cultura di oggi ha e tutto ciò che succede è legato a valori. Quindi la prima cosa che bisogna riuscire a cogliere è i valori, che in teoria non ci stanno in economia, come e dove stanno e come e dove li facciamo emergere. Quindi questa era, e quindi, in particolare dal mio punto di vista, il problema era Stato, valori, interesse generale. Lo Stato in qualche modo è, diciamo, la reificazione dell'interesse generale, nel senso che l'interesse generale dovrebbe in teoria essere, diciamo, lo Stato dovrebbe essere portatore dell'interesse generale. Quindi queste erano diciamo, le cose su cui voglio riflettere. E il punto di partenza era stata una lettura che consiglio a tutti del libro di Roosevelt. Consiglio sinceramente a tutti, perché è straordinario come questo grande politico, che è stato pure un grande intellettuale, abbia avuto le idee chiarissime dall'inizio su cosa bisognava fare e perché bisognasse farlo. E la situazione degli anni 20, fine anni 20, non era poi così diversa dall'attuale, ovviamente è sempre diverso, però c'erano molte cose in comune. E Roosevelt è chiarissimo già nella sua campagna elettorale, e in campagna elettorale va in giro per il paese, gli Stati Uniti, dicendo, va ovviamente, privilegia tutti i luoghi della socialità, ma quando va nei luoghi del potere dice esplicitamente: guardate, io sono qui per dirvi che se io vado al potere, voi lo perderete il potere. Va alla Confindustria americana, non so come si chiamava, ma dice esplicitamente: guardate, il mio problema è che siccome la politica economica non è altro che redistribuzione di potere, la mia redistribuzione andrà da voi agli altri. E va per due motivi che sono etici. La prima cosa è perché la democrazia americana nasce come una democrazia della libertà e io non voglio che ci sia nessuna concentrazione di poteri che mini la libertà della democrazia americana. E quindi questo lo dice esplicitamente. E seconda cosa, perché credo che una maggiore redistribuzione del potere sia funzionale anche al benessere di tutti. E lo dice in maniera esplicita. Allora, quando uno legge questo e guarda quello che sta succedendo non solo in Italia, ma anche, diciamo, nei paesi, in tutti gli altri paesi, ecco, si vede la distanza di questo. Quest'uomo è stato un politico, aveva intorno 4-5 intellettuali di grandissimo spessore. E se vogliamo, c'era un contesto politico molto diverso, c'era l'Unione Sovietica che sfidava gli intellettuali americani sul piano della democrazia e dell'uguaglianza. E quindi la risposta di questi intellettuali è una risposta ricca, che sfida l'idea di uguaglianza che si sta sviluppando nel mondo del socialismo reale, e in qualche modo la propone come espressione anche della cultura e della società americana. Allora, tutto questo per dirvi il punto di partenza dal quale, diciamo, mi sono mosso. Il secondo punto di partenza, se volete, è la teoria dei sistemi complessi. La teoria dei sistemi complessi ci dice che un sistema economico-sociale, in particolare perché i sistemi complessi sono anche quelli, diciamo, fisici, biologici, via dicendo, ma i sistemi economici-sociali sono fatti di quattro parti. Dalle regole, che sono le leggi di fondo, che non sono fatte così, sono regole che hanno valori dentro, quindi sono le regole che qualcuno ha pensato con qualche fine. In genere lo fa il paese dominante in funzione di certi suoi interessi. Ecco, facciamo così. Il paese dominante è una frase sintetica perché vuol dire i gruppi dominanti dei paesi dominanti. Ecco, se vogliamo dirla fino in fondo. Le regole. Poi ci sono i meccanismi di salvaguardia, cioè nel senso le regole si fissano in istituzioni. Quindi ci sono istituzioni che sono quelle che portano avanti le regole. Poi ci sono altre istituzioni che svolgono un ruolo di correzione, nel senso che quando il sistema si avvia su strade che non sono coerenti con le regole e con i valori che stanno sotto le regole, intervengono e correggono. E poi ci stanno altre due cose, ci stanno i processi che sono ciò che avviene, tutte le relazioni interistituzionali che si attivano in un mondo complesso, che sono infinite e imprevedibili. E poi ci sta un'altra cosa che è fondamentale, e e che sulla quale ovviamente mi sono soffermato, cioè l'immaginario, o meglio, l'immaginario vuol dire la narrazione, cioè nessun sistema sociale, economico può resistere nel lungo periodo se non c'è una narrazione condivisa, perché la gente deve credere in quella narrazione e comportarsi in maniera coerente con quella narrazione. Quindi la narrazione non è solo un'idea di come funziona il mondo, non è un'utopia solo, è un'utopia che si realizza, nel senso che diventa parte, diciamo, fa parte dell'immaginario collettivo. Tutti pensano che il mondo funzioni così. Ecco. Allora, il problema dove colloco la mia analisi è proprio questo: partire, quindi anche qui ci sono i valori, ovviamente, i valori stanno dentro le regole e anche dentro le istituzioni di controllo, nei processi, i processi sono senza valori, avvengono perché le istituzioni si contaminano, si scontrano, e poi invece ci sta l'immaginario che è denso di valori, che è diciamo la conferma attraverso una narrazione degli stessi valori. Allora, io questa era la cosa su cui pensavo di muovermi e su cui mi sono mosso. Allora, all'interno di questo, lo Stato. Allora, le regole sono Thatcher Reagan, le regole diciamo che sostanzialmente sono state pensate per riportare al centro gli Stati Uniti negli anni Ottanta e l'Inghilterra, che ritornano al centro e che in qualche modo cambiano il mondo. Non posso dire come lo cambiano in positivo, ma lo posso dire in negativo. Noi non sappiamo che cosa si siano detti Reagan e Thatcher, ma sappiamo cosa si sono detti Keynes, White e gli altri quando hanno fatto gli accordi di Bretton Woods, perché questi sono usciti. E Keynes ha come suo, lo scrivono degli autori italiani delle altre cose molto bene, ha come suo punto di riferimento il fatto che le democrazie hanno bisogno di margini di libertà e quindi devono avere le classi dirigenti dei singoli paesi devono avere uno spazio di libertà per poter perseguire gli obiettivi interni, quindi per in qualche modo tutelare le esigenze di una democrazia interna, quindi ci vuole uno spazio di libertà. E tutti l'insieme delle regole costruite in maniera tale da lasciare, che significa il tipo di cambi, una serie di movimenti di capitali, regolazione dei movimenti, tutta una serie di cose che sono pensate in funzione della libertà che deve essere lasciata ai singoli paesi di stabilire un proprio percorso di sviluppo che garantisca la libertà all'interno, la democrazia all'interno. L'impressione che c'è, non è difficile averla quell'impressione, perché basta vedere il perché Keynes ha detto che quando voleva raggiungere quell'obiettivo, che cosa ha fatto, quali regole ha scelto e quali sono state le regole scelte negli anni Ottanta, e basta confrontarle per capire che l'obiettivo di questo nuovo gruppo, diciamo, di politici, di Reagan e Thatcher, è esattamente l'opposto. Il problema è che non si voleva affatto lasciare i singoli paesi la libertà di decidere quello che voleva. Tenete presente che gli Stati Uniti del 1944 sono Stati Uniti che governano il 50% del PIL mondiale, gli Stati Uniti del 1983 hanno il 25% del PIL mondiale, quindi contano molto meno. Ora, queste nuove regole sono regole quindi che volutamente non lasciano spazi ai singoli paesi per avere spazi di libertà. Quindi in sostanza i singoli paesi hanno scelte obbligate. Guardate che il progetto di quei due funzionò perfettamente, perché noi diciamo sempre l'Italia è cialtrona, con queste nuove regole ce la caviamo male perché noi non siamo sufficientemente eccetera eccetera, cioè, ma in una situazione non diversa dalla nostra è stato il Giappone, se vi ricordate, che era veramente contro chi aveva fatto le regole, il Giappone era un paese che si stava comprando gli stereotipi, pure i film parlavano di questa invasione giapponese. Il Giappone scompare da quel momento, non è più una potenza economica, scompare semplicemente dallo scenario di potenza economica. Perché? Perché le regole erano fatte apposta, erano regole pensate in funzione degli obiettivi di questi due paesi, e l'Inghilterra di salita, che era, se vi ricordate, l'Italia aveva superato come il PIL inglese, quindi queste regole funzionano rispetto a quell'obiettivo. Allora, partiamo quindi e qui arriviamo al punto dello strabismo. Noi ci troviamo in un mondo in cui i singoli paesi si trovano fortissimamente condizionati nelle proprie scelte dalle regole internazionali. tutori delle regole internazionali sono le banche centrali e soprattutto i mercati finanziari con le loro istituzioni private che controllano gli stati e fanno il verso se gli stati si comportano bene o male. Pensate un po' l'assurdità, prima erano gli stati che dicevano se i mercati facevano bene o male, qui invece sono gli stati che dicono se, scusatemi, i mercati che dicono agli stati quello che si deve fare. Allora, quindi già qui ci troviamo di fronte appunto a valori totalmente diversi. Allora, ritornando a noi, se i singoli paesi non hanno grande possibilità di scelta sul piano della politica di intervento, è evidente che ci troviamo in quello che già Paolo ha anticipato, che si può chiamare uno strabismo della politica. E cioè lo strabismo della politica è che la politica deve rendere conto ai propri elettori, ma in realtà prima che degli elettori deve rendere conto ai mercati finanziari e alle istituzioni internazionali. E non è un caso che i nostri governanti, il primo giorno dopo gli ultimi tre nostri primi ministri, il primo giorno dopo che sono stati nominati primi ministri, sono andati non a parlare nelle piazze italiane, ma due sono andati a Wall Street e uno è andato alla piazza di Londra a dire: ho vinto, sono con voi, sono d'accordo con voi. Allora, voi potete immaginare questo cosa significa sul piano di una democrazia e quali meccanismi attiva in una democrazia, in cui la gente si accorge dopo la prima volta che gli hanno promesso delle cose e non le fanno, la seconda volta gli hanno promesso delle cose e non le fanno. E diciamo, io faccio l'esempio più banale, anche più, se volete, che mi piace di meno perché è un po' così, un po' modello attuale di pettegolezzo, un po' cialtrone, però lo faccio lo stesso perché dà un'idea. I 17 miliardi dati da Unicredit sono l'ammontare, ho fatto io il calcolo, di tutti i forestali della Sicilia e della Calabria per tutta la loro vita. Cioè, noi abbiamo dato con una cosa, con un semplice atto, abbiamo dato 17 miliardi a una banca privata che rilevasse situazioni di difficoltà, lo stesso ammontare che abbiamo dato di risorse che si viene dato per tutta la vita di tutti i forestali, per dire, calabresi e siciliani insieme. Stiamo parlando di questo, siccome tutti ci indigniamo di fronte al numero di quei forestali che sappiamo che facciano tante cose ma non fanno. Allora, questo per dire semplicemente che le regole sono regole che tutelano alcuni soggetti, sono costruite in funzione di certi obiettivi e non di altri. Ovviamente questo ha dei costi sia sulla politica, nel senso che la politica cambia, sia sulla società, nel senso che gli elettori rompono con la politica dopo un po' e cercano sempre nuovi spazi, perché non si fidano più degli politici vecchi e sperano sempre che ci sia un altro politico, che deve essere uno che non è compromesso con le regole internazionali, che in qualche modo li garantisca dal fatto che anche il prossimo non farà quello che vogliono le istituzioni internazionali. Lo stiamo vedendo in questi giorni. 5 Stelle va a Wall Street, si muovono, dire, va in Europa e dice: guardate, io farò quello che dite voi. Cioè, ogni volta che una classe dirigente si avvicina al potere, va dove il potere c'è sul serio, va verso quelli. Ora, tutto questo ovviamente impoverisce la democrazia e crea un insieme di derive istituzionali di grande importanza che alterano il funzionamento di una democrazia. Perché? Perché siccome si è rotto il rapporto fra cittadini e politica, la politica ha bisogno di poter sostenersi senza un legame troppo stretto con l'elettorato. E quindi si tende a ridurre la base elettorale che può garantire maggioranze, perché tanto la maggioranza non vota, aumentano le persone che... E si cercano ovviamente soluzioni che permettano di stabilire nuovi rapporti tra politica e elettorato. Tra l'altro, le regole internazionali sono regole che impongono anche dei cambiamenti sul piano strutturale. Il Job Act, che è stata una cosa come dire, frutto di diciamo, una scelta politica di un governo italiano, in realtà è quello che viene proposto in tutti i paesi come unico rimedio alla situazione, a situazioni di politica. Quindi, se volete, la responsabilità del governo italiano rispetto al Job Act è poca, ha fatto quello che gli hanno detto di fare. Ciò non toglie che facendo quello ha perso il contatto con una parte dell'elettorato, perché è evidente che Job Act redistribuisce potere e lo redistribuisce da una parte della società ad un'altra parte della società. Quindi questo era il... adesso ho raccontato l'articolo più che altro, però diciamo tutto questo io lo volevo collocare all'interno di un discorso più ampio. In sostanza il discorso più ampio all'interno del quale volevo collocarlo era quello del rapporto tra l'immaginario, quindi la cultura che ci propone un immaginario in cui tutto questo è modernità, e quindi si fanno le riforme perché le riforme sono essenziali, perché così modernizzano il paese, e in realtà non fanno altro che in qualche modo far identificare la modernità con le regole internazionali. Le regole internazionali sono la modernità, se non le rispettiamo diventiamo moderni e miglioreremo. E invece diciamo quello su cui volevo lavorare, e poi nell'articolo l'ho sviluppato, era esattamente il contrario, quello di far vedere che dietro questa modernità ci sono interessi di parte, ci sono un progetto, se volete c'è un'utopia di una società costruita intorno alle regole dell'economia. Non è che non ci sia, se volete, un sogno dietro questo progetto, c'è un sogno, e il sogno è che le regole dell'economia diventino quelle fondamentali per organizzare la società. È la società economica di Polanyi, è l'idea che una società deve organizzarsi fondamentalmente intorno alle regole dell'economia. Bene, questo è quanto. Ricordandovi, l'editore ha gentilmente offerto un messaggio, un omaggio, che è il libricino giallo sulla Grecia, e il prezzo non è di 29 euro ma di 20 euro. Ho detto questo, fatto il secondo spot pubblicitario, direi che se ci sono commenti, interventi, sono ben accolti. Bene, allora quando c'è stata la svolta? Beh, la svolta innanzitutto bisogna appunto leggere come è stata accolta la proposta di Roosevelt. Non è che Roosevelt è stato accolto dagli industriali in maniera entusiastica, non lo potevano vedere letteralmente, cioè noi vediamo dall'Italia le cose, quindi come dire, la reazione a Roosevelt da parte dei gruppi forti della società è stata durissima, gli hanno fatto una guerra spietata, a un certo punto gli hanno impedito di fare quasi tutto, cioè lui è partito con un insieme di provvedimenti, i provvedimenti dei 100 giorni, e dopodiché gli hanno impedito di fare pressoché tutto dopo i primi 100 giorni, per cui lui a un certo punto ha dovuto far marcia indietro, e ad una hanno fatto fuori tutti i suoi consiglieri economici, tutti. Quindi, vi ho detto, si è circondato di grandi intellettuali, li hanno fatti fuori tutti nei primi 5 anni, fuori nel senso che si sono dovuti dimettere. Quindi la lotta è stata aperta e durissima. L'unico vantaggio è che lui c'aveva un blocco sociale fortissimo, cioè c'aveva una maggioranza, lui è stato eletto 4 volte, e è stato eletto 4 volte perché c'aveva la maggioranza del 70% della popolazione con sé, perché aveva dichiarato che lui stava con la popolazione, quindi se l'è creato subito il blocco sociale, diciamo, in termini... Tra le altre cose, buffo, lui parla praticamente di blocco sociale senza aver letto Gramsci, ma parla proprio di blocco sociale, cioè i miei, la gente che sta con me sarà il lavoro dipendente, lo Stato, il Partito Democratico e basta. Su queste tre cose io costruirò il blocco sociale, e lo dice esplicitamente. Allora, cosa è cambiato? È cambiato che finché le cose vanno bene, questi qui non possono dire nulla. Quando le cose cominciano ad andare male, e succede quando, io credo di averti risposto, ma è una risposta parziale perché le risposte sono tante ovviamente, E quando il declino americano diventa chiarissimo, cioè gli Stati Uniti, che erano il paese che aveva il 50% del PIL mondiale, si vedono schiacciati da Giappone, Italia pure, Germania, tutti gli altri paesi crescono e lui cresce molto meno. E quindi perde terreno in termini relativi. Quindi questo, in più c'è la crisi del dollaro, il modello salta, nel senso che salta la moneta, il dollaro come moneta di riserva, e in più c'è qualche cosa che funziona nell'immaginario e che rompe l'immaginario riformista, chiamiamolo così, ed è il fatto che la crescita effettivamente indebolisce le altre utopie. E quindi, che se volete, quello che è l'utopia della crescita, che adesso è quella condivisa, l'immaginario della crescita, che è totalmente condiviso, ormai quando uno si vuol dire che una cosa è fatta male si dice rovina la crescita. La Brexit perché è importante? Perché rovina la crescita, ma chi se ne frega della crescita? A noi ci interessa il nostro rapporto con gli inglesi, con la cultura inglese, con la società inglese, invece tutto si riduce a una misura in termini di crescita. L'immaginario della crescita, in effetti, che è un immaginario di Truman nel dopoguerra, quando si vuole contrapporre ai sovietici, dice: loro hanno il socialismo, noi abbiamo la crescita e vinceremo noi, perché noi garantiremo la crescita e attraverso la crescita garantiremo ai gruppi subalterni, ai gruppi sociali deboli, quel benessere che il socialismo non è in grado di garantire. E questo è vero, questo succede. Questo non lo dico io, ovviamente lo dicono alcuni studiosi. E questo, se volete, anche la storia dell'Italia, il movimento operaio finisce di avere una sua compattezza quando in fondo alcuni obiettivi sono stati raggiunti, non di democrazia ma di economia, economici. Ovviamente poi c'è un arretramento. In più c'è anche il fatto che alla fine degli anni 70 la rottura fra gruppi dirigenti economici e gruppi politici è fortissima, perché, e questo è la, diciamo, molti studi l'hanno dimostrato, cioè c'è una compressione dei profitti molto forte per tutti gli anni 70, e quindi in qualche modo i gruppi forti a livello mondiale reagiscono a questa cosa chiedendo nuove regole. Ci stanno, come fatto nuovo, i mercati finanziari che erano stati governati, cioè controllati dalle regole di Bretton Woods, nascono per effetto di due cose: la crisi petrolifera, che fa nascere i surplus delle bilance dei pagamenti, e il mercato dell'euro-dollaro. Queste due cose creano i mercati finanziari diventano un potere che conta, e quindi vedete una serie di elementi che confluiscono e in qualche modo ridisegnano o creano le condizioni per cui i gruppi forti si riorganizzano e cambiano le regole del gioco. Tenete presente che il declino degli Stati Uniti era insopportabile per loro, così come lo è adesso, perché il declino degli Stati Uniti continua e ovviamente per loro è insopportabile, quindi le reazioni che loro hanno sono reazioni, siccome c'è un declino anche in termini sociali interni, hanno reazioni che sono quelle che ci stanno sostanzialmente anche da noi, cioè di una disaffezione della politica verso la politica, perché la politica promette non dar mai nulla, perché non può dar nulla, il che vuol dire che il modello non funziona neanche per loro che l'hanno fatto. Ruolo dello Stato, ma appunto io lo dico sempre: se vogliamo riassumere il ruolo dello Stato, lo Stato che noi abbiamo, con cui noi siamo cresciuti, è lo Stato della Costituzione italiana, lo Stato delle regole e dei valori che stanno dietro la Costituzione. Quello è lo Stato nostro, è lo Stato degli italiani. E lo Stato di oggi è uno Stato diverso. L'interesse generale non è più quello disegnato dalla Costituzione, l'interesse generale è quello del mercato. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che si cresca di più. E come si cresce di più? Attraverso il mercato. Tutto ciò che dà fastidio al mercato interrompe il processo di crescita, che è la cosa buona di per sé, l'interesse generale di per sé, e quindi va combattuta. Per cui non ci poniamo più il problema di far coincidere il ruolo dello Stato con il ruolo con la Costituzione. Attribuiamo allo Stato il ruolo di fare in modo di perseguire un interesse generale, che è quello del mercato, delle regole del mercato. e quindi qualunque cosa migliori le condizioni del mercato va bene perché garantisce più sviluppo. Quell'idea di crescita che abbiamo detto era un'utopia alternativa all'utopia del socialismo. Quindi quando si fa così è evidente che il ruolo dello Stato cambia, perché lo Stato non è più un soggetto che si muove sulla base dei valori costituzionali, è uno Stato che si muove, o meglio, qui le cose sono più complicate, perché i governi si muovono in funzione, lo Stato ha una sua inerzia e quindi continua a ragionare in termini di Costituzione, ci sono, come dire, le istituzioni dello Stato che ovviamente continuano a fare il loro lavoro, ma i governi tendono sempre più ad essere i portatori delle istanze di, diciamo, di una cultura del mercato che si sovrappone a quella della democrazia dello Stato e tende a, come dire, incrinarla, a logorarla, ed è quello che stiamo vivendo tutti i giorni nella nostra vita politica, lo si può vedere in maniera trasparente. Quindi lo Stato non è altro che un soggetto a supporto del mercato, e questo è l'unico ruolo che può permettere allo Stato di poi ovviamente ci sono altre cose per cui appunto poi lo Stato fa anche altre cose, ma diciamo l'unico che giustifica che all'interno dell'immaginario collettivo di oggi la presenza dello Stato, l'unica cosa che giustifica è il fatto che deve continuare a svolgere un ruolo di supporto al mercato. Ovviamente questo crea delle tensioni, perché noi continuiamo a vivere secondo l'idea che la società continua a vivere secondo l'idea che il nostro riferimento è la Costituzione, non il mercato, e questo crea una rottura che sta continuando a logorare la società. Io dico sempre, la politica paga anche perché ovviamente i politici che hanno valori costituzionali vengono eliminati per necessità, perché non sono quelli necessari in questo momento, e quindi c'è una selezione della politica al contrario, per cui chi va su, quello che deve parlare deve dire tante cose ma non dare nulla, e quindi il più bravo a raccontare favole, non il più bravo a fare una politica di governo seria, perché sennò se fosse uno così non saprebbe che non può dare nulla, ecco, semplicemente. Questo risposte a, scusatemi, proprio a spizzichi e bocconi. Certo, oltretutto probabilmente ci abbiamo la stessa età e stavamo insieme da caffè, quindi... Prego, benissimo. Sì, questa è una facenza che però è significativa. Dunque, premesso che abbiamo insegnato insieme per 6 anni nella stessa università, che era Urbino all'epoca, quindi facevamo il viaggio insieme e poi quando stavamo lì stavamo insieme, quindi ho passato 6 anni a lavorare con lui, litigavamo furiosamente ovviamente, e lui esprime la cultura delle classi dirigenti europee, lui esprime le convinzioni delle classi dirigenti europee e della cultura che oggi è condivisa, e credendoci abbastanza, con un pizzico di cinismo forse, ma credendoci, ovviamente le rispetta, le porta avanti, è l'uomo delle regole europee, trova diventa espressione di quella cultura. E, a mio giudizio, gli economisti, allora, concludo su brevi, gli economisti devono ritornare proprio alle origini, a mio giudizio, del loro ruolo. Ovviamente, essendo un allievo di Caffè, ho vissuto, diciamo, giorno per giorno le sue lezioni e il suo insegnamento. E bisogna ritornare all'origine dei valori, ancora una volta, bisogna avere un'idea di interesse generale, bisogna riscoprire i valori e intorno a quei valori costruire un percorso scientifico intorno a dei valori, e intorno a quei valori costruire un discorso scientifico mirato a una politica di intervento, non un discorso scientifico a sé, alla politica di intervento. E per fare questo non è ovvio, perché i valori non sono più così banali, non sono sicuro che oggi ridiremmo gli stessi valori del 44. Quelli restano punti di riferimento fondanti, ma il mondo è cambiato e quindi in qualche modo ho l'impressione che dobbiamo collettivamente ricominciare il percorso da capo, ritrovare dei terreni comuni, ricostruirli, come economisti io parlo, intorno a questo costruire, sulla base della cultura che già c'è, non inventando, cioè c'è una cultura, ricostruire uno schemi di analisi e schemi di intervento, tenendo presente che ovviamente il mondo delle regole esterne è molto forte. Le regole sono, per capirci, libertà di movimenti capitali, ruolo delle banche centrali, quelle cambiano il mondo. Lo so, finché ci sono la libertà dei movimenti di capitali, i mercati finanziari hanno un potere di ricatto sui paesi enorme, sono loro che impongono le regole ai paesi. La banca centrale che non può finanziare lo Stato, ma pensate, io lo dico sempre questa, ma pensate l'assurdo: lo Stato crea la banca centrale e poi dice sì, ma non mi presta i soldi. Ma insomma, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ha un senso se ci metti i mercati finanziari che intermediano e ci guadagnano, se no che senso ha? Ovviamente ce l'ha tanti di sensi nei racconti, ma nella sostanza, Anna, tu che sei un'economista seria. Che io difendo ufficialmente e tu no, diciamoci le cose. Dato questo. È la tua normale. Stai facendo un discorso che è manicheo e che è fuorviante. Non è che stai fuori e fai il culo sulla torre d'avorio. Stai fuori e con gli organismi intermedi, con i partiti, con i movimenti per il cambiamento, tenti di imporre delle cose. Imporre che cosa? Condizioni di lavoro. Abbandonare questa fesseria del Jobs Act. Abbandonare, superare questa schizofrenia fra allunghiamo l'età pensionabile per ridurre il disavanzo pubblico, il disavanzo INPS o la riduciamo per aumentare l'occupazione del giovanile, e ragionare in termini di un piano per il lavoro. Se vuoi abbandonare questa idiozia del fiscal compact, le cose se vuoi ci sono da fare.